Elettra, Elettra Lamborghini. Quando la notte sto sola, tu falta me descontrola. Y la ansiedad me vuelve loca. Quisiera ahora besar tu boca. Corazón morado en la chola. Corazón morado en la chola. Mándeme en Instagram. Corazón morado en la chola. Corazón morado en la chola. Mándeme en Instagram, baby. Baby. El tiempo sin ti se me hace lento. Sola en mi cama yo te pienso. No te sé explicar lo que yo siento. Vamos. Stare up. Sì, sono un bastardo solo con chi voglio. E ho i numeri di tutte le tipe in città. Ma stanotte è solamente te che voglio. E lo facciamo sul divano. Mi dici forte, poi mi dici piano. E no, quando siamo in giro non ci salutiamo. Troppi occhi, troppa gente, meglio se evitiamo. Ma tu no, non incazzarti. No, no, no. Sai che puoi fidarti più di me che degli altri. Sono circa le 4, voglia di incontrarti. Ti sto mandando il primo Uber nei paraggi. Quando la notte sei sola, sola, ehi, ed abbracci le lenzuola, baby, ehi, ti ho mandato un cuore viola nella chat, ehi, se mi chiami